Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. A proposito di Gheddafi, vorrei che si trattasse con rispetto questa persona che comunque in questi decenni ha dimostrato di saper condurre un paese migliorando il tenore di vita dei suoi abitanti, l'istruzione primaria e universitaria, includo il coinvolgimento nella ricerca, e l'economia interna, con miglioramento tecnico e produttivo delle culture. Inoltre ha tenuto basso il profilo dei fondamentalisti e ha favorito un'economia di scambi col nostro paese. Riguardo a quanto da lui detto sul bombardamento degli americani, ricordo che in quei giorni la stampa nostra e internazionale ha vergognosamente omesso le informazioni sui fatti e le motivazioni prodotte a suo tempo dagli americani non sono mai state confermate. Giacomo, Roma. Occorre avere il coraggio e l'onestà di riconoscere le atrocità che anche gli italiani possono aver commesso in tempo di guerra e di colonizzazione, assumendone le conseguenti responsabilità. Occorre però non solo stracciarsi le vesti, ma avere in parallelo la forza di rivendicare quanto di buono e positivo, a vantaggio anche altrui, è stato effettuato dai nostri predecessori. Altrimenti, oltre ad un affronto alla verità e a chi ha operato onestamente, questo rappresenta un atto di masochismo che rivela la pochezza dei nostri governanti. Riconoscimento al leader Gheddafi, che non dimentica la storia del suo popolo, anche se con atteggiamenti estremamente provocatori. Ma che dire dei nostri rappresentanti, che hanno subito in silenzio, anzi accondiscendendo, alla tracotanza offensiva nei nostri confronti. Proni di fronte a Gheddafi, alcuni per motivi ideologici legati al proprio passato di adesione al comunismo, altri per motivi affaristici e per dare l'impressione di essere in grado di risolvere i problemi. Non ho dubbi, non c'è né senso dello Stato né dignità. In sostanza, una mancanza di spina dorsale, caratteristica sia dell'opposizione sia di chi ci governa. Con l'eccezione della Lega, peccato però che persegua obiettivi di disgregazione nazionale e cerchi soluzioni essenzialmente di pancia. Augusto, nipote di un nonno criminale che nel 1911 partecipò, come semplice marinaio, alla conquista della Libia, allora colonia dell'Impero Ottomano. Vorrei informarvi che ho scritto il seguente messaggio al professor Giovanni Lubrano, il preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, che ha conferito una laurea honoris causa a Gheddafi. Esimio professore, ho ascoltato il suo dotto intervento a Radio 24 e ho scoperto che il diritto è soggettivo, o meglio, ogni etnia ha il suo. Credevo che le basi, valide per tutti, fossero insite nell'uomo, nel senso che il diritto di esistere, di essere libero, di esprimere il pensiero e seguire una religione, fosse patrimonio dell'umanità. Evidentemente mi sbagliavo. Col suo modo di pensare, tutti i dittatori esistenti meritano la laurea honoris causa. La prego di tenere presente per il futuro Kim Jong-il e Mugabe, e perché no, anche Fidel Castro, che ha dato un buon esempio attraverso la sua lunga attività di governo. Angelo. Vorrei esprimere il mio parere sul tema della laurea a Gheddafi, proposta dal professor Giovanni Lobrano. Premetto che non sono un esperto di diritto, né di storiografia islamica, tantomeno conosco la storia libanese, se non in maniera superficiale. Tuttavia, credo che se la scelta di dare una laurea honoris causa a un personaggio quantomeno controverso possa essere discutibile o poco opportuna, bisogna riconoscere che un qualsiasi studio debba essere elaborato lavorando su dati oggettivi, depurato da opinioni e preconcetti. Il regime libico, in questo caso, è stato studiato e trattato con gli occhi dello studioso, il cui compito è quello di osservare oggettivamente un regime, una struttura di Stato, nato da una base culturale e frutto di un processo storico-culturale complesso, estremamente diverso dal nostro. Noi possiamo non comprenderlo, possiamo osservarlo superficialmente e magari esserne disgustati. Compito di uno studioso è analizzarlo, comprenderlo e magari spiegarcelo. Infine, permettere di riconoscerlo al di là del fatto che lo si condivida oppure no. Lobrano ci ha spiegato, per sommi capi, che a lui la Libia risulta essere un sistema democratico e funzionale, oltre l'apparenza che ci mostrano invece i resoconti giornalistici. Se reputa che il sistema di Gheddafi sia meritevole di attenzione dal punto di vista del diritto, al punto da affidargli una laurea, posso fidarmi. Chi ha creato la bomba atomica era un genio della fisica, anche se questa è diventata poi un orripilante strumento di distruzione di massa. E lo stesso vale per i sistemi culturali, politici ed economici. Marco, Bergamo. Ho sentito le presunte ragioni del preside della facoltà di giurisprudenza di Sassari, il quale, volendo conferire una laurea honoris causa a Gheddafi, riesce a trovare motivazioni anche per un uomo che ha un curriculum vitae che sarebbe stato invidiabile anche per Saddam Hussein. La coscienza italiana ha rimosso il dramma degli italiani di Libia, che nel 1970 sono stati cacciati senza i propri beni, in quanto confiscati dal colonnello, spogliati del loro passato, del loro presente e di parte del loro futuro. Questi italiani, con la I maiuscola, hanno saputo ricostruirsi, partendo da zero. Svenduti per motivi di interesse nazionale da Aldo Moro, in quanto il petrolio valeva più degli interessi spiccioli di questi italiani con la I minuscola. Svenduti poi da Dini, Prodi, Berlusconi, per gli stessi interessi, senza distinzione tra destra e sinistra o centro. Vedo tutta l'Italia dell'informazione chinare il capo di fronte a questo dittatore per soli motivi di ordine economico. Il colonialismo all'italiano non è tutto negativo, ma ha portato dei notevoli vantaggi anche alla Libia. Perché non è stato messo sull'altro piatto della bilancia il contenzioso dei beni confiscati agli italiani? Se il governo ritenesse di secondario interesse questo aspetto, si accollasse il governo stesso l'indennizzo, o meglio, il risarcimento a questi cittadini, invece di creare opportunità alle grandi aziende italiane a discapito dei diritti di piccoli cittadini. Quando la smetteremo di accettare provocazioni in ogni occasione? Vorrei vivere in una nazione che non accetti supinamente missili su Lampedusa, barconi di immigrati, spediti volontariamente per ottenere una contropartita, né tantomeno lezioni di democrazia da questi personaggi. Maurizio, laureato in giurisprudenza, non a Sassari, figlio di profughi dalla Libia. La disinformaccia di sinistra continua a dominare in Italia. Altro che potere mediatico di Berlusconi. Sentite qua. Una piccola minoranza di compagni, quelli che prendono il 3% alle elezioni, fa la solita chiassata violenta e i giornali parlano di studenti tout court che protestano. Non solo, ma questi studenti vengono fatti passare come paladini della libertà, mentre a loro della libertà non gliene frega niente. Contestano il dittatore di Tripoli non perché sia un dittatore, ma perché appoggia i respingimenti. Loro sono peggio di Gheddafi, sono quelli che hanno impedito di parlare al Papa, che appoggiano centri sociali e graffittari, che propugnano la legittimità di occupazioni ed espropri proletari, che sognano il regime cubano e adorano l'icona del criminale Che Guevara. Sarebbe bello che Gheddafi se li portasse a casa. Tiranni con tiranni, andranno sicuramente d'accordo. Mara. Sono una semilibera pensatrice. Uso semi poiché, pur non avendo avuto condizionamenti familiari, evviva, non nego l'influenza di tutto ciò che mi circonda, che cerco di vagliare e rielaborare. Non sempre mi riesce. Pur non avendo una chiara identità politica, ciò mi dispiace, e forse proprio per questo, vengo collocata dai miei interlocutori o a destra o a sinistra, mai al centro. Interlocutori grossolani, per la verità. Grossier, si dice in francese, termine molto evocativo. Per cui, se non demonizzo Berlusconi, divento immediatamente berlusconiana, seguace di fede, detto con spocchia e stupore, dato che sembro abbastanza intelligente. Se dico, per citare un fatto recente, che Grillo non si può permettere di dare della zoccola alle parlamentari, sia in un contesto formale che informale, lo faccio perché sono stufa di sentire che una donna bla bla bla. E lo faccio perché penso abbia mancato fortemente di rispetto alle istituzioni. E voilà, ecco che divento la donna di sinistra incazzosa, femminista. Ma io sono io, col mio pensiero. Vorrei fosse rispettato. Accetto che non sia condiviso. Adoro lo scambio dialettico, ma non voglio dover giustificare il mio pensiero. Emilia. Egregio signor direttore, a volte mi capita di sentire alla sua radio e anche in TV lamentele di famiglie numerose che descrivono le loro difficoltà lavorative ed economiche e l'insufficiente assistenza da parte dello Stato. Premetto che sono pienamente d'accordo. Io stessa, dopo la nascita del mio primo figlio, ero stata costretta a licenziarmi perché la ditta mi aveva revocato il part-time. E sono potuta tornare al lavoro solo al compimento dei 3 anni del mio secondo figlio, cioè quando sarebbe potuto andare alla scuola materna, dal momento che prima non avrei potuto permettermi le cifre assurde degli asili nido. Detto questo, però, caro direttore, con tutto il mio appoggio e la mia comprensione per le famiglie, non posso fare a meno di farmi una domanda. E mi scuso se posso sembrare cinica o indelicata, ma mi chiedo, perché alcune famiglie, molto numerose, sapendo già in partenza di avere difficoltà di organizzazione lavorative e avendo una debole situazione finanziaria, decidono di mettere al mondo altri figli? Non sarebbe meglio cercare invece di far crescere il meglio possibile i figli che già si hanno, evitando di far subire loro ulteriori rinunce? Insomma, detto in parole molto schiette, se la vita è già difficile, perché andarsela a complicare ulteriormente? Lo Stato non ci aiuta, è vero, ma penso che anche noi genitori dovremmo capire che a volte sarebbe il caso di fermarsi. Elena Mantova. Cara Elena, mi permetta di dire che non sono per nulla d'accordo con lei. Non mi piace soprattutto quel tono di fondo che di fronte ai problemi delle famiglie si può riassumere con «lo hanno voluto, si arrangino». Non è solo questione di cinismo o indelicatezza, è il concepire la famiglia come un fatto privato e personale, senza dare a questa stessa famiglia quell'importante ruolo civile e sociale che ha. Indubbiamente, la paternità e la maternità responsabili sono un valore che va insieme promosso e difeso. Responsabilità, tuttavia, che deve trovare nello Stato e nella società tutto l'appoggio necessario. Anche perché non bisogna dimenticare i problemi di equilibrio sociale che comporterà il basso tasso di natalità dell'Italia con un crescente squilibrio tra giovani e anziani. Non si vede perché una famiglia italiana debba sentirsi in colpa nel desiderare un figlio in più. Perché mancano gli asili nido, perché non ci sono aiuti per i costi aggiuntivi, perché è terribilmente complicato trovare un alloggio più grande. Perché le famiglie italiane non possono avere quello che hanno le famiglie francesi o tedesche? E perché dobbiamo pensare che un figlio in più complichi la vita? Perché non vedere la gioia e la serenità nei fratelli che giocano insieme? Ogni famiglia dovrebbe essere messa nelle condizioni di volere ed avere i figli che ritiene responsabilmente utile volere ed avere. Senza dimenticare che la Costituzione, nell'articolo 31, stabilisce che la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Fino a qui la Costituzione, con articoli largamente disattesi. Per questo lamentarsi è un sacrosanto diritto. Ho sempre avuto simpatia per Beppe Grillo, anche se non l'ho mai preso molto sul serio. Ma mercoledì scorso, ascoltando il suo intervento in Senato, ho provato pena per lui. Anche lui è vecchio e superato, come i senatori che lo ascoltavano, e per di più non se ne accorge, legato al suo ruolo ormai patetico di enfant terrible della società italiana. Come interpretare infatti quella sua sbandierata contrapposizione fra chi legge un giornale di provincia come il rispettabile Resto del Carlino e lui, il grande innovatore che usa la rete? Sentirsi moderni perché si sa navigare in internet è come sentirsi pilota di Formula 1 perché si sa mettere in moto un'automobile. È un errore di valutazione, comprensibile in un bimbo o in un anziano. Temo però che Grillo abbia superato l'età dell'innocenza, o meglio ci stia rientrando attraverso la porta stretta del rimbambimento. E che dire poi del termine usato per designare le senatrici? Non credo ci sia da scandalizzarsi, ma da preoccuparsi. Se in Italia la modernità e la libertà sfrenata di pensiero è incarnata da un ultra sessantenne, la cui visione del mondo femminile contempla la categoria delle zoccole, vuol dire che siamo arretrati di almeno 50 anni. Fra l'altro, anche da un punto di vista linguistico, il termine zoccola è piuttosto desueto. Se mi è permesso un consiglio, vorrei dire a Grillo che prima di spacciarsi per apostolo del nuovo, dovrebbe soggiornare qualche anno a Princeton o a Berkeley e annusare, sempre che il suo inglese glielo consenta, le vere novità e poi tornare, magari con un vocabolario sulle donne un pochino più aggiornato. Insomma, anche per Grillo è difficile invecchiare. Laura. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci